www.radiotrepod.rai.it. It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce. Mentre nella fabbrica di polli la tirannide del profitto miete ogni notte nuove vittime, Cappa e Drago parlano di marketing. Ma poi rimane il problema delle cartilagini, però, capito? Per vendere il prodotto, ma poi no, bisogna risolvere. Le cartilagini no, dai, ma te lo immagini? Sentire quello scricchiolio sinistro sotto i denti. Lo so, da fastidio, però le cartilagini servono a qualcosa, no? A cosa? Non lo so, però se il buon Dio, facendo i polli, ha fatto le cartilagini, vuol dire che ci devono stare. Sì, ma cosa c'entra adesso il buon Dio, Drago? Sì. Proprio tu. Stiamo parlando di mostri biologici ad esclusivo uso e consumo dell'alimentazione umana. Tu te ne esci col buon Dio? Smettiamola subito allora, dai. Il consumatore vuole avere poco da masticare, tutto qui. Non ne vuole sapere niente della nomenclatura della carne di pollo. La cosa? La nomenclatura della carne di pollo. La nomenclatura che... Il pollo non è una carne, non è una carne normale. Se togli il petto, tutto il resto... Prendi la coscia per esempio. È tutta piena di filetti, di grasso e poi i tendini e i muscoletti, quello e quell'altro... L'uomo moderno non è abituato alle pillole ormai, non mangi più quella roba lì. E quindi un lago salato di pezzi di pollo. Il sogno dell'uomo moderno è un lago salato di petto di pollo. E quello che il progresso dell'uomo realizzerà da qui a non molto sarà esattamente un lago salato di petto di pollo. Il futuro ce l'ho qui davanti agli occhi ed è un lago salato di petto di pollo. Fabbrica di polli. Uè, Tarek! Tarek! Guarda un po'. Lo vedi che petto? Sì. Guarda qua. È un petto mica da ridere. Sì. Sì, no, ma non toccare però. Guarda, mettiti lì. Guarda bene di qua. Lo vedi? Guarda di profilo. Questo non è mica un petto come gli altri. Non è mica un petto che trovi ogni angolo della strada. Non è che io questo petto l'ho nutrito a mangime scadente. Guarda che roba. Non è mica un petto... quasi alla Sofia Loren. E parlo della Sofia Loren di adesso, Cioè, non quando era giovane, ai tempi della Ciociara, che era un po'... io parlo di quella di adesso. Ciociara? Ho capito, ma non mi toccare. Cosa c'entra? Poi alla fine, se mi guardi un po', e se ci pensi, io posso fare anche un bel calendario, No? Non ti immagini? Ciociara? Ma no, Ciociara, il calendario, gennaio, febbraio. Metto a gennaio e metto così, no? Che è tutto un mese un po'... poi c'è febbraio... E marzo, che comincia la primavera, quindi se mi sposto da questa parte, che alzo le piume di qui, E poi aprile, e poi vado avanti, Ma tutto io, non è che faccio solo un mese. Perché allora ho fatto un mese solo, Io faccio 12 mesi. La fabbrica di polli. Hai presente i ristoranti KFC? KFC. Kentucky Fried Chicken. Ah, Kentucky Fried Chicken, certo. Lì vendono perfino le ali di pollo senza ossa. Sì, non so come facciano, però disossano l'ala e offrono le ali senza ossa, capito? La tendenza è quella lì. Bah, le ali senza ossa mi sembrano la versione aviaria della polpa di granchio. Ma cosa c'entra adesso la polpa di granchio, Drago? Stiamo parlando di ali di pollo. Si chiama le ali. Si chiamano chicken wings, sono le ali di pollo. Di polpa di granchio. Alla fiera dell'Est, per due soldi, ali di pollo di polpa di granchio, mio padre comprò. La polpa di granchio, lo sanno tutti che non è di granchio. È giusto polpa di pesce da modellare a tuo piacimento. Come il pongo. Se le danno la forma di due chele, diventa polpa di granchio. Se le danno la forma di due grandi orecchie, potrebbe passare per polpa di coniglio che sa di pesce. La stessa cosa succede con il pollo. Che sa di pesce? No, che con la polpa di pollo fanno le ali, il petto, le cosce. In pratica ricreano dei simulacri di parti anatomiche ormai sparite, non esistono più, ormai desuete, ma alle quali siamo ancora abituati, capisci? E dunque, le ali senza osso del Kentucky Fried Chicken sono molto probabilmente solo una imitazione di ali di pollo. Noi mangiamo imitazione di cibo. Siamo alla frutta, K. Frutta di polpa di pollo. Ma intanto, nei disertati sotterranei della fabbrica di polli, dove l'aria è spessa come una bistecca alla fiorentina, avvengono cose che nessun cervello umano potrebbe riuscire a comprendere. Cose come le avventure di la cavia da laboratorio. Sono impegnato in un'acquisizione di importanza vitale. Ho deciso di tentare questa strada, la strada di una joint venture con la Impanando e Marchetti di Viale Papignano. La Impanando cederà alla nostra compagnia un ramo d'azienda, quello dei petti di pollo, a fronte di un investimento che faremo noi e che verrà utilizzato dalla Marchetti per l'implementazione dei servizi informativi. Questi servizi informativi sono fondamentali nell'attività di e-commerce, incentrata nella produzione e vendita online delle mai troppo celebrate crocchette di purée di patate. Le crocchette di patate della Impanando e Marchetti. Vi saluto. Beh, si dice, Drago, no? Si dice gallina vecchia fa buon brodo. Quindi anche tu, alla tua età, dovresti cominciare a crederci. Beh, gallina vecchia qui dentro ha 38 giorni. Io quasi 40 anni sarei una gallina antica. No, ma quelli sono i polli, ricordati. I polli fanno la carne e le galline fanno le uova. E poi il brodo. E poi il brodo di gallina, chi lo apprezza ancora? Se un bambino adesso fai mangiare la pastina nel brodo di gallina, gallina vera, gli viene uno shock anafilattico tipo che diventa tutto viola e muore. È morto. Eh sì, la donna d'oggi non sa cucinare, quindi siamo tutti abituati al brodo di dado, che è innocuo all'apparenza, medio nei sapori e nei colori, ma micidiale in quanto a schifezza. Se invece di essere finiti in una fabbrica di polli fossimo finiti in una fabbrica di dadi, sarebbe stato peggio. Dateci dentro con quei bulldozer! È tutto chiaro? Carcasse di animali morti di malattia a destra! Teste e zampe di pollo al centro! Ossa di mammut rubate al Museo di Scienze Naturali di Vladivostok a sinistra! Oh, il mammut non era morto! La fabbrica di polli! Allora, Joao, fatti un po' vedere, vieni qui. Sì, ma girati però. Ecco, dai. Mi sembra che vada bene, no? Sei sempre piccolo, non sembra neanche che hai 12 giorni. Ma io ho fama. Ma cosa ho fama? Ho capito! Ma se non vuoi morire la macella devi digiunare, no? Tu devi digiunare, eh? Vuoi morire? No, e allora digiuna. E invece se non mangio, non muoio? No, se non mangi muori lo stesso, eh? Solo che muori... che ti fa meno impressione. A un certo punto ti addormenti e... ed è finita. È morto. Che cosa succederà adesso? Quanto ci mette un pulcino come Joao a morire di fama? E soprattutto, è meglio morire di fama o con la testa tagliata dalla macchina rotante? Lo scoprirete soltanto sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo affamatissimo allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di K e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen con Roberto Accornero, Guido Bertolotti,